Everybody. che da tanti ma non da tutti la storia ci insegna. Gli americani con i totem indiani, le colonie europee con le tribù africane, le culture del passato ci hanno superato, gli assiri, i babilonesi, gli inca e maya, le tribù del Ghana Wallo, i popoli del Congo Wana, le tribù del Mali Wana, i popoli del mondo Wallo. Giro, giro, giro, giro, giro, tondo. Giro, giro, giro, giro, giro il mondo. Giro, giro, giro, giro, giro, tondo. Giro, giro, giro, giro, giro il mondo. Maschere qui, maschere là. Maschere dei ruoli della società, della quotidianità, della realtà. Queste le maschere che voglio caccia. Cerco di essere me stessa da mattina a sera. Bando alla fretta milanese. Cerco una realtà semplice, voglio solo una realtà semplice. Giro, giro, giro, giro, giro, tondo. Giro, giro, giro, giro, giro il mondo. Giro, giro, giro, giro, giro, tondo. Giro, giro, giro, giro, giro il mondo. One love, one heart, let's get together and feel alright. One love, one heart, let's get together and feel alright. Giro, giro, giro, giro. through friends, lived inside behind, closed my scars instead of hiding them, which never turn but fresh light of childhood and loss of illusion. Sucks through faded shadow. Try to

così appassita. América Latina, haciendo frente al paramilitar, por su tierra y su cultura. Años de marginación, solo hay un arma, tomar la palabra contra la represión. No se cumplieron los acuerdos San Andrés, otra mentira del poder. Y esa tierra que quieres alambrar, ni tiene dueño ni se deja pisar. Por la dignidad, sigue en pie. Contra el paramilitar, sigue en pie. De aquí no podrán pasar, sigue en pie. Sigue en pie. La lucha por la dignidad, sigue en pie. Contra el paramilitar, sigue en pie. De aquí no podrán pasar, sigue en pie. La lucha por la dignidad. Bona nit. Música de l'Horta i música urbana. Música rebel. És música per a ballar en el cap i per a escoltar en els peus. És la música del combat. És la música de qui sap. Shadows, big bags of men's clothes. This is what I happen when someone just a moment. Like I'm on fire, and there's someone Musica che qua sta pompa, senti i suoi bassi come il tetto sfonda, muovi i tuoi fianchi ora segui l'onda, segui i tuoi sensi solo questo conta, voglio che il messaggio solo amore infonda, per tutte quelle lady con la testa bionda, rossa nero uguale tanto poco conta, basta che si muovono che la dancehall è pronta a rapada, un sole che mi brucia in testa isola, ma sta musica rinfresca pure l'anima, volemo solo reggae sensi mira, e questo è il messaggio la famiglia, un sole che mi brucia in testa isola, ma sta musica rinfresca pure l'anima, volemo solo reggae sensi mira, e questo è il messaggio la famiglia, Paco tabacco, venere marijuana, cosa cenere pacchi olandesi, posta celere 7 settembre, ora di mettere non sapere più a cosa credere, quando la vita li è pronta per cedere, strappa l'amore si succhia nel lettere, senti nel gusto ed ora puoi credere, metti in estenia da mettere lettere chiare, vorrei trasmettere, volevi entrare, bastava chiedere ora danzare, semina le valle quindi appicciare, fumare, riflettere più che scavare, non si può scendere un giorno comprare, l'altro puoi vendere se vuoi vibrare, basta procedere. Ora suona, tu senti come suona, volemo solo reggae, music e babona, da Taranto a Roma, da Trapani a Verona, una può firmare, t'acquetare, piccusa e funziona, e senti come ti già si rincia, tocca nudi l'anima, t'agguante e ti spaganta come se fosse un'arma di multica, un è solo musica, la pappa che bambè si parte ma piscala, quindi cusci io tu ricordo solo una carica, una bella femmina, una volta che senti anche tu, sta musica non la si giù, e quando ti senti più giù, lei subito ti tira su, io sempre ti fermo cucù, vuole firmare il suo groove, e mo veni barile caricillo tu. Rapidi l'occhio, figlia di buono, sai che lo sono, non io mi muovo, siete già rincia, ma io mi trovo, c'è la se foca, sto minchiare sciobo, bombo le accendini, caccio sui primi e van per il fuoco, se il rap è stu si pare, ulia comincia un altro yoko, rapete l'occhio, figlia di buono, sai quello sono, non io mi muovo, siete già rincia, ma io mi trovo, c'è la se foca, sto minchiare sciobo, bombo le accendini, caccio sui primi e van per il fuoco, se il rap è stu si pare, ulia comincia un altro yoko. Un sole che mi brucia in testa isola, ma sta musica rinfresca pure l'anima, volemo solo reggae sensi mira, e questo è il messaggio la famiglia. Un sole che mi brucia in testa isola, ma sta musica rinfresca pure l'anima, volemo solo reggae sensi mira, e questo è il messaggio la famiglia. Un sole che mi brucia in testa isola, ma sta musica rinfresca pure l'anima, volemo solo reggae sensi mira, e questo è il messaggio la famiglia. Un sole che mi brucia in testa isola, ma sta musica rinfresca pure l'anima, volemo solo reggae sensi mira, e questo è il messaggio la famiglia. Oh, ma dire, cosa c'è lo sto cazzo di schifo il rap? Allora il rap, bellina. Dai, cazzo. sapere quanto bruci avere una ferita che non si cucirà mai, e non sai quanto costi avere mille carte in mano, un'ombra che ormai sceglie il gioco per te. Passi che non sempre sono giuste le mie decisioni, ma le difendo perché sono idee concepite al sole del mio credo, dove vivere vuol dire scegliere da sé. Solito replay, fatto distante, disposte a ripetersi ancora. Armi, disarmi, nei giorni scarni, un solito replay, fatto distante, disposte a ripetersi ancora. Armi, disarmi, nei giorni scarni, un solito replay, fatto distante, disposte a ripetersi ancora. Armi, disarmi, nei giorni scarni, un solito replay, fatto distante, disposte a ripetersi ancora. Rico. gioca intorno al tuo avvenire, ed è per questo che continua a dire vattene e non cercare di ritornare, perché il mic non fa per te. Yeah, elementi che vedi per strada e siamo solo in venti, ma che danno molto, diventeremo in tanti, siamo occhi spenti, mostrati alle genti, lasciati in balia come capelli e quattro denti. Ritorneremo in tanti, zero cure, siamo compatti, non ti passate in lotti contorti, i miei pensieri contro i tuoi son botte a suon di rime, imprime un colpo alle vetrine del tuo show, pensavi forse un tasso, no, si chiama il pop e al top della forma mi son trovato, quel che è già passato ormai è stato, sembra arrivato il momento di partire verso nuove prove, nuove sfide, ciò che dite non mi interessa perché so che un po' da fare. Che non fanno per me. Una è l'amore delle persone, l'altra sei te. Non fai per me, sì, noi stiamo in mer, sì, in un mare de merda. Che te pensi, eh? Mica, me servi te, no, non me servi te, no. Riparto da zero, guardo fisso il cielo e me ne vado al mare, senza un pensiero. Te faccio più a male, alzando lo stereo a manetta. Sta scena a me sta stretta, come la tua maglietta, come la tua fighetta. Io l'amore, vero, lo tengo nel cuore, anche sol cuore nero che va rallentatore, perché c'ho troppo dolore accumulato, ma che ho cancellato, acido ho cancellato, troppe cose che ho sbagliato, in troppe ho creduto, mo so cresciuto e non me fai cornuto. Non credo più all'amore, ma neanche lui a me, non provo più dolore, no, non fa per me. Non credo più all'amore, ma neanche lui a me, non provo più dolore. No, non fa per me. No, non fa per me. Il mondo mi ossessiona, tu chi sei, frate? Ho fatto tutta questa strada da solo, mo tanta gente appresso, tu invece stai solo. Ho visto certa merda che è meglio che moro. Ho visto certe cose che no, non perdono. Ho fatto tante strofe che senti, che suono, che esce fuori. Tu non ti muovi, stai bloccato, depresso e non sai che fare. Non sai repare, zio, vai a rubare, che non c'è posto per te se non sei sicuro. Io ci credo e il mondo me lo inculo. Qua l'amore, dimmi un po' dove cazzo sta. L'unico amore che conosco è quello per il rap, e tu lo senti, se non lo capisci non fa per te. C'è problemi con cose, ce l'hai con me. Non credo più all'amore, ma neanche lui a me. Non provo più dolore, no, non fa per me. Non credo più all'amore, ma neanche lui a me. Non provo più dolore, no, non fa per me. un'altra notte che comincia, non so che pensare. Fuori sta piovendo e nella mia testa sta per grandinare. Ho mille problemi assurdi e non so come fare, ma dico che va tutto bene, non mi devo lamentare. Fuori c'è un mondo duro, fatto di serve e padroni. Malibaba ora è morte, sono più di 100 sti ladroni. Ti hanno rubato tutto, anche il talento e le ambizioni. Vogliono che anche tu sia al servizio dei padroni. Ma dall'altro lato c'è un mondo che piange, non fatto di soldi, ma di sudore e sangue. Di chi non sa cos'è un sogno, ma solo un'arma e spara. Di chi mangia riso e basta con la pancia gonfia d'aria. Apri gli occhi, in questo mondo sono anche un sopravvissuto. Costruisco il mio domani anche se ignoto e sconosciuto. Vado verso ciò che voglio anche se contro tutti e tutto. Combatti anche da solo per ciò che hai sempre voluto. E se credi in qualcosa, qualcosa cambierà. Se superi i tuoi ostacoli, qualcosa cambierà. Se credi nei tuoi sogni, qualcosa cambierà. E cambierà, cambierà, quel qualcosa cambierà. Dimostra ciò che sei e qualcosa cambierà. Se cadi e ti rialzi, qualcosa cambierà. Se ora guardi avanti, qualcosa cambierà. E cambierà, cambierà, qualcosa cambierà. Questo voglio la meta, voglio chiudere la bocca a chiunque mi disprezza. Taglio chi mi sta sul cazzo, come il tic della lancetta. Taglio chi si mostra falso, come la vendetta. Oggi credo in un futuro, non credo in chi mi è illuso. Parole su parole, ma prive di contenuto. Parole su parole, come il mondo mi ha cresciuto. Ma a quelle parole no, non ci ho mai creduto. Anche la fede è un flop, non me lo spiego mica. Credi nelle peggio storie, casi di pedofilia. Nascondono innocenti agli occhi della famiglia. Ora quegli occhi sono lucidi, freddi come una pia. Ora mi vivo il presente, ma in mente mi le piani. Mo mi sbatto più che posso, e costruisco il mio domani. Il domani resta incerto, per come gira strano il mondo. Anche il mio rimane incerto, ma io vado fino in fondo. E se credi in qualcosa, qualcosa cambierà. Se superi i tuoi ostacoli, qualcosa cambierà. Se credi nei tuoi sogni, qualcosa cambierà. E cambierà, cambierà, quel qualcosa cambierà. Dimostra ciò che sei e qualcosa cambierà. Se cadi e ti rialzi, qualcosa cambierà. Se ora guardi avanti, qualcosa cambierà. E cambierà, cambierà, qualcosa cambierà. E se tu non hai limiti nei tuoi orizzonti, guarda su su, con le mani avanti per chi ti vorrebbe giù giù. E se ti cerca con lo sguardo e non ti vede più, più, è solo perché non hai fatto quel che hai fatto tu, tu. Non hai limiti nei tuoi orizzonti, guarda su su, con le mani avanti per chi ti vorrebbe giù giù. E se ti cerca con lo sguardo e non ti vede più, più, è solo perché non hai fatto quel che hai fatto. E se credi in qualcosa, qualcosa cambierà. Se superi i tuoi ostacoli, qualcosa cambierà. Se credi nei tuoi sogni, qualcosa cambierà. E cambierà, cambierà, quel qualcosa cambierà. Dimostra ciò che sei e qualcosa cambierà. Se cadi e ti rialzi, qualcosa cambierà. Se ora guardi avanti, qualcosa cambierà. E cambierà, cambierà, qualcosa cambierà. E se tu non hai limiti nei tuoi orizzonti, guarda su su, con le mani avanti per chi ti vorrebbe giù giù. E se ti cerca con lo sguardo e non ti vede più, più, è solo perché non hai fatto quel che hai fatto tu, tu. Non hai limiti nei tuoi orizzonti, guarda su su, con le mani avanti per chi ti vorrebbe giù giù. E se ti cerca con lo sguardo e non ti vede più, più, è solo perché non hai fatto quel che hai fatto tu, tu. Indipendentemente dalla distanza che va dal punto A al punto B, metro B o A, ogni linea qua attraverso ogni quartiere della mia città. Sottoterra, gallerie costruite vicine ad un passato fatto di rovine, fatiche, lungo le linee, bombardamenti come nel Kippur. Dal Capolino a Laurentina scendo giù a Cavour. Non è un viaggio in tour, è il passepartout. L'ho avuto su a Flaminio col mio primo crew, più old school. Da Reba a Ottaviano una fermata sola, l'appuntamento fisso per chi c'era allora. Roma, dal sottosuolo ad ogni zona, a Termini si scambia per poi ripartire ancora. Piramide Quadraro, uscita al lato destro, la linea della metro e la linea della vita a doppio senso. Underground, Roma, le metro parlano, ogni fermata la sua storia. Underground, Roma, le metro viaggiano, dal sottosuolo ad ogni zona. Underground, Roma, le metro specchiano, la gente che ci viaggia sopra. Roma underground, underground Roma, per ogni metro persa ce n'è sempre un'altra ancora. ancora. Scendo a termini, la terra della birra di Bangla. Linea B, come la linea di una vita che non cambia. Fra chi ha una valigia di cartone come stanza, e chi lascia un vagone ma carico di speranza. Sì. Next stop, parla dei tempi del mio liceo, con le seghe a scuola, stando a due passi dal Colosseo. La piazzetta, fetta di cui vado fiero, il monte trella poi anche con la pioggia fa sereno. Yes. Viaggi nella metro interminabili, calore che si appiccica addosso, rende le pelli impermeabili. È un'agonia, non ci sono alibi, un bacio ai miei fratelli spettabili, ragazzi di piazza Bologna. Da San Giovanni a metro Furio Camillo, i danni, ricordi e anni parlano con uno strillo. Metro B o A, stesse facce, stessa gente, ma conta la storia che è differente. Underground, Roma, le metro parlano, ogni fermata la sua storia. Underground, Roma, le metro viaggiano, dal sottosuolo ad ogni zona. Underground, Roma, le metro specchiano, la gente che ci viaggia sopra. Roma underground, underground Roma, per ogni metro persa ce n'è sempre un'altra ancora. A Roma viaggiano dagli anni 50, indossano il cult e boom dei writing degli anni 80. E se dal 2000 la vita è fatta di carta, beh, senza biglietto ci salivi negli anni 90. La metro parla, viaggia, freccia, mostra la vita quotidiana e la sua giostra, pare fatta apposta. Una faccia, un mille sfaccettature, ognuno ha la sua storia, io pure, pure. Eppure collegano quartieri come tubature, scortano passeggeri con tutto e niente in comune. La prima, per chi lavora gira già dalle 6 di mattina. L'ultima corsa ha salvato più di una vita. Underground, sottoterra fuori dal traffico, destini cambiano al volo tipo sliding doors, fiumi di vite che scorrono avanti e indietro. No way, come le linee della metro. Underground, Roma, le metro parlano, ogni fermata la sua storia. Underground, Roma, le metro viaggiano, dal sottosuolo ad ogni zona. Underground, Roma, le metro specchiano, la gente che ci viaggia sopra. Roma underground, underground Roma, per ogni metro persa ce n'è sempre un'altra ancora. Dei miei versi che riporto scritti sulla strumentale. Roma. La Roma del frastuono, la Roma del romano senza sordi ma con il cuore d'oro. Roma. La Roma del nasone, la Roma dei sanpietrini che pavimentano il mio cuore. Roma, Roma che te bussa, mago guarda e il pantera, piazza trilussa. Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, noi ci siamo, voi ci siete, siamo sempre a Roma. Ogni notte parte sempre strana, bravetta, trullo e poi maiana. Sesso, droga e rock and roll marchiati fine settimana. Il Colosseo biondo tevere, negli occhi di un romano che non sa mai cedere. Ti perdi mille vicoli, senza via d'uscita. Tu te ci fai le foto, quando ci vieni in gita. C'è chi la vive strana, chi non l'ha mai capita. Ti dico solo che per me sei tutta la mia vita. Roma campo di fiori, Roma fiori di pesco, Roma al tramonto dal Giannicolo un affresco. Amo guardare Roma mentre dorme, mentre vive nel mio corpo sotto mille forme. Roma timida con gli occhi da bambina, pizza bianca calda e mortadella alle 7 di mattina. Roma capitale, la Roma dei miei versi che riporto scritti sulla strumentale. Roma, la Roma del frastuono, la Roma del romano senza sordi ma con il cuore d'oro. La Roma del nasone, la Roma dei sanpietrini che pavimentano il mio cuore. Roma, Roma che te bussa, mago guarda e il pantera, piazza trilussa. Guardo Roma, le chiese, i monumenti al cielo, te la sogni in cartolina mentre io la vivo per davvero. Ti inietto un siero dritto nello stereo, premi stop indietro, riparti, nasce l'impero. Questa città mi ha donato emozioni vere, hanno impresso nel mio cuore SPQR. Vietela a vedere, perché non puoi capire, se nasci qui, qui tu vuoi morire. Tu sei il battito del cuore che mi fa vivere. Roma mia, tu, c'è tutto un altro stile. Mi hai dato amore, sogni, realtà sconosciute. Chi te conosce, te ama e non te discute. Roma Colosseo, Roma San Pietro, la Roma del turista che la guarda da un vetro. Roma, Roma, Roma Monteverde, la Roma del vero amore che se perde, se perde. Roma, Roma capitale, la Roma dei miei versi che riporto scritti sulla strumentale. Roma, la Roma del frastuono, la Roma del romano senza sordi ma con il cuore d'oro. La Roma del nasone, la Roma dei sanpietrini che pavimentano il mio cuore. Roma, Roma che te bussa, mago guarda e il pantera, piazza trilussa. data la mia bravura sta sempre in secondo piano. Prendo quello che mi spetta, non so se ci capiamo. La lupa alle mie spalle prima baia e poi mi ringhia, poi mi morde per farmi capire che non l'ha da finta. Col cazzo che io mollo, che non getto questa spugna. In fondo è solo un'altra caria, ad ogni strofa le si bagna. La prendo per il collo urlandogli in faccia il mio nome. Sono grinta, brutta stronza, in queste frasi c'è passione. Un pischello nato dal ventre di questa nazione. E ora che ci sto dentro sfrutto a fondo l'occasione. Percorro ogni sua strada che mi fa restare calmo. Se la iena sta di lei, grinta Roma e lo sciacallo. Roma, Roma capitale, la Roma dei miei versi che riporto scritti sulla strumentale. Roma, Roma del frastuono, la Roma del romano senza un sordo ma con il cuore d'oro. Roma, Roma del nasone, la Roma dei San Pellini che pavimentano il mio cuore. Roma, Roma che te bussa, mago guarda il pantera, piazza Trilussa. Roma, R come resta ancora chi passa da sti pizzi, sicuro che ci si innamora. Oh, Roma o sta capì, gente spiccia alla mano con un lessico ristretto romano. M, mamma mia che città, Cassè, Sant'Angelo, Colosseo, sette colli, dimmi chi ce l'ha. Ah, come amore, tante persone, un solo cuore con la stessa passione. La Roma dei Verdone, la Roma dei sordi, la Roma della gente alla mano, vino, trippa nei borghi. Roma, nome di città comune, la storia riassume che ha un cuore e bellezza fuori dal comune. La vedi e ti innamori, troppa storia, tanti colori. La Roma del Colosseo, dei gladiatori, tutti faranno fatica a scordarti. Roma è come una droga e ci ha drogato a tutti quanti. Il mio cuore batta scatti, la Roma dei coatti nei parchetti, a fa cacciare a strafatti. La Roma trasteverina, quella illuminata che te fa compagnia fino alle 7 di mattina. Roma, Roma mia, non te lascerò mai sola, te lo prometto. Roma, Roma mia, me te porterò per sempre dentro al petto. San Pietro, rispetto, dialetto perfetto. 20 anni che la vive e non gli trovo un difetto. Roma, Roma capitale, la Roma dei miei versi che riporto scritti sulla strumentale. Roma, Roma del frastuono, la Roma del romano senza un sordo ma con il cuore d'oro. Roma, Roma del nasone, la Roma dei San Pellini che pavimentano il mio cuore. Roma, Roma che te bussa, mago guarda il pantera, piazza Trilussa. Noi siamo vittime di una società che ci divide. Se spinge a fare la guerra fra poveri e cederide, sei costretti a fare sfide tra poracci. E non te fidi manco dei fratelli che t'abbracci. Ma lo sapevo tutti che insieme siamo tanti abbastanza per togliere importanza pure ai contanti. E infatti tutti vogliono la rivoluzione, ma in piazza ci trovi quattro persone. E a dire la verità ci vogliono ore d'organizzazione pure per decidere il titolo di sta canzone. Però se ci rifletti, se ci metti passione, giri in cannone, poi va tutta la perfezione. Ho imparato da sta città piena d'odio e falsità, l'importanza d'averce gente di cui te puoi fidare. Può sembrare una banalità e la critica c'è sta, ma nessuno prima ha reso sto concetto realtà. Con gente malata che non si sente amata, vive con niente in questo ambiente, trova sempre la strada. Se mi chiudo fumo e vegeto un'intera giornata, se sorrido recito perché l'ansia è appena tornata. Mi serve tutto, me lo devi dare sfogo quando rimango da solo. Non mi allontano mai tanto da loro, se conti che rap non è manco lavoro. Vado al volo, visto quello che mi serve, quello che mi piace. Sento anche chi tace, non sei d'accordo mi dispiace. Questa è la mia mentalità, senza giochi mentali fra a chi è rimasto a 20 anni fa. Il mio pensiero è stereo, ve l'ho confessato. Sembra quello che avrei voluto ci fosse stato. Facciamo le 6, dico tutte le notti. Ogni giorno non dormo, tipo da 3 notti. Sconnesso in streaming alle 3 cozzi. Te intanto scrivi e fammi fare 3 botti. La notte apro tutti e 3 gli occhi. Te senti dei sprocchi, free download che scrocchi. Quindi bro dimmi che cazzo vuoi e fai invece di rompere cazzo a noi. Ho imparato da sta città a sopravvivere in cattività. Ho sbagliato, ho imparato poi con l'età che o cambi il tempo ti cambierà. Ho imparato da sta città piena d'odio e falsità, l'importanza d'averce gente di cui te puoi fidare. Può sembra una banalità. Nella critica c'è sta, ma nessuno qui m'ha reso sto concetto. A frate, io sto bene da solo. Non credo alle cose che dicono loro. Dico e faccio quello che voglio e scrivo su un foglio il mio viaggio. Malato come te, che ce volevi divisi. Ce volevi divide, noi reggemo la crisi. Se sentimo rapiti da ste sonorità, con la stessa passione e la stessa serietà. La missione è comunica quello che sei. Con o senza troppi sensi, doppi sensi. Quello che pensi forse non è reale. Io provo a comunicare sta rabbia che m'assale. Provo a respirare più aria pulita, meno infettata, mi sento male. Stiamo messi male, stiamo messi male. E lo so che lo vuoi ma non ci puoi fermare. Non ci puoi staccare da qua, da qua. Non ci pensare nemmeno compa. Stiamo un po' pressati, troppo impegnati per dare retta a sta gente qua. La notte senza dormire, notti insonni per farvi capire che la passione non la puoi assistire. Fumo erba, sono pronto a partire. Extreme Team di 0 2010. Extreme Team di 0 2010. Extreme Team di 0 2010. Vengo da una generazione piena di confusione, senza passione, che distrugge il mondo senza intenzione. Sempre in ritardo andavo a scuola senza far colazione, e prima ora stavo fatto senza panna in cannone. Lezione più interrogazione, manco ricreazione, per 6 ore tutti i giorni e manco l'occupazione. E mi ritrovo mo senza l'istruzione necessaria per capirti gerizione straordinaria. Non prendo posizione su teorie de un coglione campate in aria, se varia pure in ogni situazione precaria. La politica non esce scientifica e religione, se studi scienze politiche sei un coglione. Stiamo senza direzione, senza sogni né Dio, che gli dirò a mio Dio dopo la sua progressione. Che branco dei coglioni senza manco fai nomi, hanno distrutto tutto e noi siamo rimasti zitti e buoni. Apolitico, apolitico, non credo più a parole dette da un politico. Apolitico, apolitico, litico col capo e non faccio l'autocritico. Apolitico, apolitico, il bilico tra il danno grave è quello critico. Disinteresse cinico per chi volesse clinico, ma adesso mi identifico. Sto in un paese vegetale dove la gente tende a vegetare, e il presente che vive è strettamente digitale. Prova ad incitare questi pori cristi con i cuori tristi a testimoniare in aula contro il principale. Non sentiamo le vostre promesse, viste le nostre proteste, oltre le colpe omesse, le vostre sporche scommesse. Non abbiamo interesse nelle vostre finte messe, dove parlate di cose belle che non sono mai successe. Sono sbagliato se penso che il futuro mio non va comandato dall'ennesimo raccomandato, che ha detto che il debito sarà risanato, il tuo stipendio sale insieme alla rabbia del disagiato. Siamo stanchi di non poter dar fiducia, di fare uno strappo alla regola e aspettare che si ricucia. Sogniamo di poter credere alle vostre parole, ma ci credemo più come voi al nostro valore. Apolitico, apolitico, non credo più a parole dette da un politico. Apolitico, apolitico, litico col capo e non faccio l'autocritico. Apolitico, apolitico, il bilico tra il danno grave è quello critico. Disinteresse cinico per chi volesse clinico, ma adesso mi identifico soltanto così. Yes, dedicato a tutti i fratelli troppo intelligenti. E sceglie per decide, destra, sinistra, è tutto uguale. Tanto sai com'è, poi alla fine sparano sempre al centro quando siamo noi poracci. Va così, ecco qui per me il suo di soggiorno. Tutto va così, buche baba enorme a mezzogiorno. Razzi vari strani modi di portare la cultura ad un paese disastrato che va contro la natura. Oggi va così, il nostro presidente va puttana. E tutto va così, adesso aspetta solo le marziane. E travagli di spettito, alza la telefonata. Voi lo sa, ma dato inizio una carriera disastrata. Oggi va così, veni insulti, mango li condanni. Tutto va così, tette e mezze fuori a 15 anni. E ci resti fuori stucco se ti vengono stuprate dai pedofili vogliosi con idee già preparate. Oggi va così, la moneta ormai è fondamentale. Tutto va così, per fortuna che non so parlare. Una lingua depravata con i soldi nella bava, che si compra tutta Italia e poi la getta nella lava. Oggi va a così, tutto va a così. Oggi va a così, tutto va a così. sembra un parto viscerale. C'è un soldato in mezzo che va in culo al generale. Come un'auto male andata con il cambio sequenziale. Oggi va così, sono pronto ad indietreggiare. Tutto va così, troppa folla per poter sparare. Sono chiuso in una gabbia ma non voglio più votare. Il presidente sessionato dalla bianca e da puttana. Oggi va così, con la neve sta in infarito. Tutto va così, non ci credi cazzo più tagliato. Verso un mondo disagiato che mi sembra infinito. Non lasciarti sopraffare e non fare di paurito. Oggi va così, devi essere almeno sincero. Tutto va così e purtroppo oggi è tutto vero. Tu rapidi uno straniero, sei richiuso per una vita. Ma se invece ti rapina tu lo uccidi lo straniero. Oggi va a così e tutto va a così. Oggi va a così e tutto va a così. Oggi va a così e tutto va a così. Oggi va a così e tutto va a così. Oggi va così, non pensare di poter scappare. Tutto va così, poi se cadi tu ti sai rialzare. La natura mai incazzata lancia bombe nucleari. Alluvioni, terremoti a proporzioni nucleari. Oggi va così, ma non sai come andrà domani. Tutto va così, un futuro lungo senza mani. Perché qui sarà reato quando tocchi più potenti. E le guardie di costoro taglieranno i residenti. Oggi va così, spazzatura nera in mezzo Italia. Tutto va così, c'è qualcuno idiota che qui sbaglia. Comandare, fare leggi, pronunciare l'altra strage. Andare a togliere i festini e poi rimettersi la faccia. Oggi va così, mi diverto solo se non sballo. Tutto va così, ma non ho la sfera di cristallo. Leggi su sono mai passate, leggi serie da votare. Ora pensa ci rimane da votare il nucleare. Oggi va a così e tutto va a così. Oggi va a così e tutto va a così. Oggi va a così e tutto va a così. Oggi va a così e tutto va a così. Dobbiamo mandare il nastro indietro più veloce di quanto fanno loro. E se c'è gente che lo permette, ce n'è altra che vi ostacola. Ormai tutto è il contrario di tutto. La vita è il lutto, io che sto distrutto. Riappacifichiamoci ma in un solo riassunto. Rapper parlare alle masse ma parlo turco. Non si sente, non si smette. Io lancio e tu raccogli come un setter. Sempre, l'involuzione a sete. D'acqua non promette. Disinfestazione di un prete poco credente. Di un porco credente. Credetemi gente, leggete i giornali. Non salvate il presidente. Eravamo 100.000 a fare A. Voi bambini fanno O, questo è quello che vorrà. Male lingue, mala sanità. Malattie, mala vita, male al rap. Ma la via di questa vita è questa qua. Ci si avvita in una bomba gridando il nome d'Allah. Reverse, riversa. Sta merda come punto di partenza. Reverse, rilancia. Cambia mesi, si lago della bilancia. Reverse, resisti. Non ascoltarli, riempili di fischi. Reverse, ritorna. E il sistema cambia nella forma. Yeah. Resisti, combatti e minaccia. Tu insisti e non scappi, gli spacchi la faccia. Loro hanno i mezzi e più soldi che mai. E i nostri di mezzi una bomboletta spray. Capirai, no, hai tutto il mio rispetto. L'Italia strizza l'occhio al Vaticano, è un sospetto. Magari tu è peggio di quanto mi aspetto. E mentre io rappo chi mi legna col caschetto. Senza più bastoni, senza più gastoni. Senza più love story siamo fuori. Senza Berlusconi se non viene eletto. Via sui servitori e tutti dentro. Yeah. Occupazione mediatica, non bambini con le armi in mano come in Africa. La condizione è drammatica e lo Stato non è che minimizza, è che parla solo il capo. Reverse, riversa, sta merda come punto di partenza. Reverse, rilancia, cambia mesi, si lago della bilancia. Reverse, resisti, non ascoltarli e riempili di fischi. Reverse, ritorna e il sistema cambia nella forma. Se sei tu in TV parli troppo. Pay per view e tu fuggi col malloppo. Questo è il clou, io non vado con lo zoppo. Una crew che fa su dentro un lotto. Se sei tu lì in piazza parli troppo. Ho amici a sud che in piazza spaccano troppo. Bevo rum sulla nave mentre affondo. Come Marco Polo, autorità del porto. Se sei tu in TV parli troppo. Pay per view e tu fuggi col malloppo. Questo è il clou, io non vado con lo zoppo. Una crew che fa su dentro un lotto. se sei tu lì in piazza parli troppo. Ho amici al sud che in piazza spaccano troppo. Bevo rum sulla nave mentre affondo, come Marco Polo, autorità del porto. Reverse, riversa, sta merda come punto di partenza. Reverse, rilancia, cambia il resistilago della bilancia. Reverse, resisti, non ascoltarli, riempili di fischi. Reverse, ritorna, e il sistema cambia nella forma. Pensieri strani girano dentro di me, le soluzioni più diverse alle domande più legittime viaggiano su ritmiche e si compensano, si versano da liquide, si addensano, certe si sfiorano, certe si attraversano, certe danno risposte, non sempre sono giuste, non sempre ha la scelta dentro le tre buste, rimangono proposte divorando tutto come locuste. Uomo affamato rimane uomo affamato, l'odio accumulato fa sentire l'ululato, roba forte nell'anonimato, una macchina perfetta come nero cromato, tutto sommato niente sistemato, l'ultima che ho amato, la vita ho rovinato, m'ha lasciato qua spalmato sul bordo di un ricordo, questo è un suono sordo, bastardo dallo sguardo ci si abbordo, riguardo ciò che in generale ho perso, e adesso so che non valeva il prezzo e tanto meno l'utilizzo, ben areato, sottopagato, mai piegato, non so ha regalato, sì, e t'ho già sgamato, condannato a stare in bilico tra palco e vita, il pensiero più ossessivo, una data, un'uscita, su di me nevica fiocchi, chiudo ste rime a blocchi, zero futuro sui tarocchi. Respiro lentamente, analizzo la mia vita, riflettendo come finirà, riflettendo, riflettendo, riconoscendo ciò che voglio veramente, quello che poi prendo. Respiro lentamente, analizzo la mia vita, riflettendo come finirà, riflettendo, riflettendo, riconoscendo ciò che voglio veramente, quello che poi prendo. Ci sono sistemi contorti, distorti, da paranoie e crimi più composti, disciolti in situazioni affini a casi morti, risolti in cui si segue il fatto, ma l'origine dove sta? Non mi spiego che intreccio è la realtà. Chi vive appagato dai momenti inaspettati, chi non si accontenta mai di certi risultati, chi mangia dietro la gente son sempre affamati. Non c'è una soluzione, vai è solo così. Ci capo nugi, fiacqua, fortuna e qui stasi. Vivo di piccolezze e ambizioni, così stau cresciato e sereno come in gita da greenhouse. Non riesco a risposte, ci me minto e su faccio. Su lume creo cammino, resto non voglio lo saccio. Qui tu capi in su, tu dico e qui sto un tuio. Alle occasioni della vita di Necicileo. Respiro lentamente, analizzo la mia vita, riflettendo come finirà. Riflettendo, riflettendo, riconoscendo ciò che voglio veramente, quello che poi prendo. Respiro lentamente, analizzo la mia vita, riflettendo come finirà. Riflettendo, riflettendo, riconoscendo ciò che voglio veramente, quello che poi prendo. Respiro lentamente, analizzo la mia vita, riflettendo come finirà. Riflettendo, riflettendo, riconoscendo ciò che voglio veramente, quello che poi prendo. Respiro lentamente, analizzo la mia vita, riflettendo come finirà. Riflettendo, riflettendo, riconoscendo ciò che voglio veramente, quello che poi prendo. Paura, se ci pensi non ci trovi sensi, ma con ritmi densi e sensi brilli come Nancy. Con il mic accendo la sera, ti levo il blin blin. Con il mic sono Carnera e gli altri ping ping. Sul ring diavolo taz, non faccio jazz, rime chiuse come le sbarre di Alcatraz. Si so pazzo, se mi fumo un pino, Daniele è il mio nome, il cognome, eh?

se la posta in gioco è alta. È un mare dove puoi nuotare se ti esce a galla qui. Nel far west sopra i beat c'è la guerra da infami. Ci siamo noi, non siamo né cowboy né indiani, sì. Proprio a tirarci in mezzo. Tutti pronti a smontarci, ma chissà che al primo pezzo. Io sì ci casco, ma ogni volta mi rialzo. Tutto questo quando sto quasi mollando. È la cura che ripara tutti i miei complessi e serve a me come antibiotico nei testi. Io sì ci casco, ma ogni volta mi rialzo. Tutto questo quando sto quasi mollando. È la cura che ripara tutti i miei complessi e serve a me come antibiotico nei testi. Mon rap, mon récit représente. Mon récit est toujours à lorsqu'une instru se présente. Mon récit prend la tangente si un défaut se présente. Mon crew déboule sans crampe même si raide est la pente. Mon récit, c'est mon rap, mon récit représente. Mon récit est toujours à lorsqu'une instru se présente. Mon récit prend la tangente si un défaut se présente. Mon crew déboule sans crampe même si raide est la pente. Depuis octobre 2007, mes thèmes ont changé. Un crew s'est formé, un part délicoté, c'est danger. Même plus la même raison de penser quand le chrono est lancé. Mes lyrics s'enchaînent, mais ils s'en mêlent jamais. Mon récit c'est ma réplique, seule façon de m'exprimer. CMP 4-1, ciné d'un 4 beurre stylé. J'sais une langue du stylo pour griller les décibels au micro pour que je sois bien compris. Mon récit est une cartouche, mina historia brillante. O me uno me mucha capoce. Mina experiencia está presente. Nas minas para blas et boss et sabé. Talentueur 2008, nouvelle raison de se défouler. Y'a pas de raison, j'suis au B. Mon récit c'est mon rap, mon récit représente. Mon récit est toujours à lorsqu'une instru se présente. Mon récit par la tangente si un défaut se présente. Mon crew déboule sans crampe même si raide est la pente. Mon récit c'est mon rap, mon récit représente. Mon récit est toujours à lorsqu'une instru se présente. Mon récit prend la tangente si un défaut se présente. Mon crew déboule sans crampe même si raide est la pente. Mon récit c'est mon histoire car sans elle je ne serais pas là. Ma haine contre le parloir car mon frère a connu ça. La suicide n'a rien à foutre à part nous casser les couilles. Nous faut que nous séparer des nôtres pour qu'on fout la pagaille. Alors je me révolte encore à ma façon dans l'air rapide. Pour faire comprendre à ces grands peurs qu'ils aient voir les putes apprécier. Mon récit c'est mon défi, mon récit s'amplifie. Mon récit est cutané car dans le rap je suis condamné. Mon récit est prodige car mes pensées se fichent sur plusieurs objectifs et mon crayon est plus que réactif. Cada minuto progresao, c'est MPFO. Ce son n'est pas un proto car mon récit te met KO. Mon récit c'est mon rap, mon récit représente. Mon récit est toujours à lorsqu'une instru se présente. Mon récit prend la tangente si un défaut se présente. Mon crew déboule sans crampe même si raide est la pente. Mon récit c'est mon rap, mon récit représente. Mon récit est toujours à lorsqu'une instru se présente. Mon récit prend la tangente si un défaut se présente. Mon crew déboule sans crampe même si raide est la pente. Mon récit s'exporte dans son monte le volume du boomer. Mon récit me donne raison de cette cramer sur le terre-terre. Le rap c'est le moment de pause ou sur les instrus je pose. Ma voix est à l'ouest, je l'impose. Mon récit est à l'ouest, je l'expose. Les MC je les expose sur le sky, je prends ma dose. Sans jamais d'overdose, appel à saut, paracé ou solos. Coup de patate dans les reins, mon récit en vaut plus d'un. Je suis encore loin de la fin, refais mon style, je le prends en main. Je m'ouvre pas plusieurs fois dans le rap, je défonce les murs comme un bulldozer. Je fais ma caricature, mec j'ai déjà mon futur. J'ai déjà l'ouverture, toujours quelque chose à dire. Mon récit c'est mon allure, mon récit c'est mon rap. Mon récit représente, mon récit est toujours un lorsqu'une instru se présente. Mon récit prend la tangente si un défaut se présente. Mon crew déboule sans crampe même si raide est la pente. Mon récit c'est mon rap, mon récit représente. Mon récit est toujours un lorsqu'une instru se présente. Mon récit prend la tangente si un défaut se présente. Mon crew déboule sans crampe même si raide est la pente. Vedi fuga nuda da una fessura. Il tuo problema è la paura. La vedi quando la luna dice che è luna. La vedi quando è più scura e la stanza è buia. La vedi in fuga, nuda da una fessura. Giura, il tuo problema è la paura. Piacere Cristo, vivo più senza vita. Perché se batto ciglia mio babbo prende la cinta e mi picchia. Babbo di minchia, prova a guardarmi i miei panni. Se ancora lui ha 40 anni con i suoi compagni sniva. Ha una foto fissa ed in vista. C'è un simbolo nazista ed ora un posto fisso in ditta all'IVA. Quelli in Marocco pure in India, fra li chiama Niga. Per quanta birra beve è stata in clinica. Mia mamma zitta, non conto un cazzo perché chi c'è il cazzo fa il capofamiglia. A 50 anni incinta, aspetta una bimba. E mentre lo fa stringe una bambola, la pettine le fa la tinta lilla. Cara maestra, questa è una bella famiglia. Somiglia a quella della Barilla, da mille miglia. Se vuole le metto la firma, se vuole chiede a sua figlia. Se preferisce me al principe William. C'ho 7 anni e vado a scuola e non sono ancora una donna. Eppure sembra farla apposta, con quella mano morta. Mio padre mi tocca sotto la gonna. La stessa mano che mi coccola per ogni lacrima che gocciola. La stessa mano che spinge la porta in bagno quando mi faccio la doccia. Ma mi chiedo perché mia madre non se ne accorga. Per stare buono voglio stare sola, mentre mia mamma quella stronza si consola col prozza. Mamma è una festa, una torta. Voglio vederla morta sotto le lenzuola con la testa mozza. Se chiudo gli occhi vedo il sangue in una pozza. Satana che mi ingozza, mi scozza, ascolta mozza. Cosa ti importa? Il mio nome sulla tomba sarà scritto in rosa con un'unifosca. La vedi quando la luna dice che è luna. La vedi quando è più scura e la stanza è buia. La vedi fuga nuda da una fessura. Il tuo problema è la paura. La vedi quando la luna dice che è luna. La vedi quando è più scura e la stanza è buia. La vedi fuga nuda da una fessura. Giura, il tuo problema è la paura. Acre, e sei già fottuto, principe di questo inferno, un porcito umile saluto, sola dedica, uno sputo, renditi fiero di quel che cago muto. Made in Doga, killer flow, va tutto a tempo che chili di coca in blow. Musi spati come Hong Kong, sfondo queste casse come King Kong Bong, e sono fuori come i King nelle mie serate. Rap troppo di classe da pagare a rate, mafia civica, gang bang, e son mazzate, poveri illusi che pensate. Paragonarsi come un santo su delle mine piazzate. Suicidi di massa, eutanasie programmate. Giorno del giudizio, una fila di date. Viaggio nell'inferno come Dante. Un girone dei dannati senza speranze. Maledizione epocale, nuovo millennio. Passo i miei virali dalla casa del tuo stereo. Non ho lampade ma sono un genio. Rap italiano, classe senior. Continuo a dileguarmi e la minaccia in come tra di là in realtà accompagnato da carote. Questo è il chiostro, è questo foglio, è questa sala. Ogni cellula del mio corpo che si scuote, la rabbia dentro di me che cuoce. Sto sanguinando affisso in una croce, mentre vengo dilaniato da una belva feroce. Brandelli e cenere da tutte le parti. Io dove sei? Perché non vieni a salvarmi da questo inferno? Da questo buio eterno, in vita gesto estremo, stile blasfemo. Sono il Pagani del nuovo millennio. Il Dante che se ne va a spasso per l'inferno. Mi fermo ad ogni girone a cantare una canzone. Tra i lamenti e i dannati, i demoni che ballano ipnotizzati. Io ne approfitto per allontanarmi. Correndo mi dileguo fra le fiamme, lasciandomi l'ultimo girone alle spalle. Innanzi agli occhi una porta gigante. Io la sfondo con parole sante. Quel mentre davanti a me che appare. Sì, proprio lui, il principe del male. Lucifero in persona che mi implora. Non suonare, metti bocca. Questo beat, made in Bada. Anche sì, made in Bada. Questo beat, made in Bada. Questo master, made in Bada. Voglio stampe, made in Bada. Queste facce, made in Bada. Made in Bada. Resti in questo limbo camminando nell'oblio. Ogni vostro peccato compensa il mio io. La ciglia che svuota è la mia anima da dentro. L'uscita che prevale ogni puro sentimento. Quella che spacca timpani e parete. Ogni mia nota si siglia tra le crepe. Niente, ogni tua speranza, made in Doga, infiamma la tua stanza. Di certo vi domanderete, da dov'è che viene questa sete di rabbia, odio e follia. Rap, battiamo strani, mezzo mia. Mi aspetta di diritto, dal momento che ti scarichi questo disco. Spunto da carote, sputerò le vostre anime nella valle della morte. Chef sul piatto, made in Moda. Ogni applauso è made in Moda. Questa voglia, made in Moda. Questa forza è made in Moda. La nostra flotta, made in Moda. Yo, la ditta degli originali. Yeah, mattone, yeah. Mattone. Original vita, original vita, original, original, original vita, original vita, original vita, original, original, original vita. È un mondo 8 bit e fa per me. Se Brasca manda il beat, Roy fa del re. Se vuoi fare il fake, ciccio vattene. Spiccio pagine con lacrime, qua giù non è Summer Jam. Abbiamo la pallina e molte skills. Voi da Blue Beats, fottuto come Mills. E ci crediamo che le cose cambiano. Sarà ciò che è più cazzuto se ne sta chiuso in un angolo. Non aspettiamo super rapper che ci salvano. E mi rode, caro Felice Caccamo. Non abbiamo il tempo per farci belli. Trucchi o coltelli, meglio uno storytelling. Lo storyboard scritto ma dai fratelli. Cronaca del rap e fantastorie di gioielli. E non ci attaccano trucchi alla Merlin. Cresciuti per sto rap omogenizzato Melly. Il sistema va giù, mattone per mattone. Il pop va giù, mattone per mattone. La tua mano va su perché sa che se si muove apre le teste, quelle delle persone. Il panorama va giù, mattone per mattone. Dire non ne posso più, io c'ho quello che ci vuole. E urla il mio crew perché ne aspetta di muove. Posse da come, mattone per mattone. Original vita, original vita, original, original, original vita, original vita, original vita, original, original, original vita. Servono cacciaviti, rapper scacciamiti, e sono già serviti, caccia aperta e lidi. Caccia gente con la scaccia cani che mi schiaccia mentre caccio infami. È un pensiero che suda tra le mani. Originali finché restiamo normali. Anomalie tra sti esseri umani. E l'essere strani e reggere da vegetali. Chi regge tali esempi è un grande karma. Io faccio grandi esempi, grande mamma. E tu fai grandi segni, grande larva. Noi tra i pochi impegni abbiamo media alla malva. E quello che ci insegni non ci salva. Finché sei tu che regni, rap salta. Lo so di questi tempi, stiamo tutti attenti. Teste fuori, dentro, sto fuori programma. Il sistema va giù, mattone per mattone. Il pop va giù, mattone per mattone. La tua mano va su perché sa che se si muove apre le teste, quelle delle persone. Il panorama va giù, mattone per mattone. Dire non ne posso più, io c'ho quello che ci vuole. E urla il mio crew perché ne aspetta di muove. Posse da come, mattone per mattone. Facci caso, non è che mi stupisci. Più stiamo rilassati e più ti nervosisci. Originali, gavetta che intuisci. Già lì per me è un gran culo come Rikishi. I soldi fanno la felicità di una nazione intera o perlomeno di metà. Se c'è un sogno che s'avvera, io vorrei che l'aldilà fosse un ghetto blaster carico di pop boom bap. Rappare con Tupac, farla con Eazy-E, con Guru che fa rap. Io le doppie B.I.G. Steel come D.R.E. senza misura. Non capisci le parole, ascolta l'incazzatura. Rappare con Tupac, farla con Eazy-E, con Guru che fa rap. Io le doppie B.I.G. Steel come D.R.E. senza misura. Non capisci le parole, ascolta l'incazzatura. Il sistema va giù, mattone per mattone. Il pop va giù, mattone per mattone. La tua mano va su perché sa che se si muove apre le teste, quelle delle persone. Il panorama va giù, mattone per mattone. Non ne posso più, io c'ho quello che ci vuole. E urla il mio crew perché ne aspetta di muove. Posse da come, mattone per mattone. Original vita, original vita, original, original, original vita, original vita, original vita, original, original, original vita, original vita, original vita, original, original, original vita, original vita, original vita, original, original, original vita. Continui a chiederti il perché.

gialli, viole, verdi, gialli, viole, verdi, gialli, viole, verdi, dimmi quanti cazzo ne vuoi, gialli, viole, verdi, gialli, viole, verdi, gialli, viole, verdi, dimmi di che taglio li vuoi, gialli, viole, verdi, gialli, viole, verdi, gialli, viole, verdi, dimmi quanti cazzo ne vuoi, gialli, viole, verdi, gialli, viole, verdi, gialli, viole, verdi, dimmi di che taglio li vuoi. I miei fratelli hanno l'alternativa. Feel like talking right now. Yes. So I might be talking about you. You, you, and you. I won't mention any names. No, I'll let you do it for me. J, aka Smooth Silk Linen, baby. Time to get things straight once and for all. I'ma do the damn thing with a lot of honeys involved. I'm 24 years old, of course I'm a ball. Don't give a damn in case some of y'all might consider me as being too soft. I'ma tell you like it is, your life ain't hard. It's ain't New York, you ain't ghetto. You ain't hustling, squeezing in the meadows. The closest you come is wearing baggy jeans, watching rap shows and reading magazines. But keep repping, who's the hottest? I get my time with your girlfriend in your own apartment. Lights off, Jay, coming off the stereo. One phone call away and I'm ready to go. I ain't talking in a disrespectful way, but some of y'all have some issues nowadays. Stop lying, dog, you ain't struggling at all. This is Sweden. You ain't packing gas, you ain't hard, you ain't living in the garage. This is Sweden. Fly overseas, claim use a G, please believe. This ain't Sweden. Witness a massacre in Middle East or Africa. Bet you'll be thanking God. I love what I'm doing, plus I don't need to act. Tell a couple of lies to see me in a bad. We both know y'all don't live like that. Because you dream about it doesn't mean you have. How many times y'all need to be reminded? This is Sweden, your lifestyle is delighted. So cut the nonsense, wake up from your fake misery. Release your conscience, unfold your blinds. All you see is barrels singing, ain't no homicides. It's so good and calm, but somehow you make a sound as if you ain't war in your part of town. You're fake, you're phony, your style is garbage. Learn to speak truth, then call yourself an artist. I didn't wanna do this, but y'all got me started. So keep your lips sealed, tell me how this shit feels when it's this real. Stop lying, dog, you ain't struggling at all. This is Sweden. You ain't packing gas, you ain't hard, you ain't living in the garage. Cause this is Sweden. Fly overseas, claim use a G, please believe. This ain't Sweden. Witness a massacre in Middle East or Africa. Bet you'll be thanking God. This is Sweden. Stop lying, dog, you ain't struggling at all. This is Sweden. You ain't packing gas, you ain't hard, you ain't living in the garage. Cause this is Sweden. Fly overseas, claim use a G, please believe. This ain't Sweden. Witness a massacre in Middle East or Africa. Bet you'll be thanking God. This is Sweden. Yo, I don't need a third verse. I let the beat ride upon you. I won't waste no more time. And for all of y'all that's been through real pain, I got nothing but love for you. Keep your head up. The darker the skies, the brighter the stars shine. Keep that in mind. Lo vivo dentro e non lo ammetterei mai, tranne nei pezzi, quei diversi tratti di complicità che hai. E tra le note questi guai suonano come persi, tra gli intermezzi dei miei armonici che osservano il via vai da dentro. Non mi descriveresti mai una giungla di cemento. I film e queste rime che mi bucano il cervello. Fisso lo sguardo, guardo fisso linea discontinua, sempre più spontaneo ma meno istintivo di prima. Adesso rido e so contento, però aspetto il down. Col sorriso e la malinconia d'un clown. E lascia lacrime che colano come benzina, pronte a prendere fuoco con la prima che arriva. Arriva come un'onda densa, diversa, che allinea le disuguaglianze e vive l'incoerenza. Questa brezza che sferza, rallenta i passi. Mi trovi ancora qui dove hai lasciato che bruciassi. Sprazzi d'infinito come buchi neri,

soltanto dopo aver spinto sul pedale. Non è gusto dell'orrido, è vita reale. Quando sei in crisi epilettica fatto totale. Non posso ridere, non posso stare fermo. Cuore batte forte più, scendo giù all'inferno. Sta paura non può imporsi. Le catene sono fredde ai polsi. È brutale come l'acido che squaglia giù. Seppe con il padre canta in tribunale, messo alle strette. Questo suono è brutale e non lo faccio per moda. Lo faccio per la family e per i miei broda. A testa alta, ad alta quota. Sono brutale su ogni nota. Questo suono è brutale e non lo faccio per moda. Lo faccio per la family e per i miei broda. A testa alta, ad alta quota. Sono brutale su ogni nota. Dipendente, il mio peggior nemico è un fottuto agente. Il primo per la roba venderebbe la madre. L'altro per fumare mi ha fatto arrestare. L'ipocrisia invade tutte le strade. Rende le persone più disperate. Mi puoi chiamare pervertito, perché ho preso tra le natiche la vita come un infradito. Di notte al parco come un matto me la rido. Se mi trovi a quattro zampe come un gatto son finito. Dopo due ore che son sveglio son sfinito. Ho troppi pensieri che non pagano l'affitto. Il mio cervello delle pare è l'ospizio. Giocano con me, lo fanno per vizio. Senza avere neanche un nesso. Più che alla mia vita sto pensando al mio decesso. Più che alla mia morte sto pensando a contare i colpi che sto assestando. Sono assestato di High Grade Funk e vi stiamo già sediando. Sessionato da High Grade Skunk e vi stiamo già aspettando. Sono in giro e ci stanno già cerchiando. C'è delirio, lo stanno già accertando. Come stai, ti riprendi, che vai cercando? Qui posto che vai, ho posti che trovi. Io ho posti più safe, di posti più nuovi. Dai, costi più alti, costi quel che costi. Io resto coi miei, coi graffiti e con i real DJ. Coi b-boy e con gli amici miei. Nei giorni che ho perso e in quelli di successo. Non cambio, io cresco a te. Che è successo? New Kings fa da Matt Rock B più il fra più cresco. Sto pensando a starci dentro, non ho tempo di compiangermi perché il domani è incerto. Di certo oggi è prenso, ma se ci penso ogni momento è buono, uomo, per un decesso. Non sto pensando a questo, sarò onesto, farò presto. Io penso al successo, detesto il contesto. Confesso, protesto su un testo. Conquisto un posto che ha un costo. Imposto, innesco il composto. Opposto, disposto e scomposto. Comporto problemi e sconforto. Se non sei a posto, conosco il mio spazio. Non scazzo, pompato, non sono mai sazio. Ma resto me stesso, non perdo la fottuta cognizione del tempo. So much class. È su Death Records, Larry Jowl al beat, LHH, me ne fotto di quello che dicono su. Forse un fuoco di buono ma non come vuoi tu. Resto quello che sono, uomo, niente di più. E se parlo italiano l'accento del sud. Siamo giù per le strade, dentro il posto e il bagno. Nella zona se ci stai cerchiando. Con la mia famiglia, brucio sensimiglia. Dove vedi fisso fino all'ultima bottiglia. Per le strade, dentro il posto e il barrio. Alle spalle tutto il blocco è caldo. Centro e periferia, è tutta gente mia. Resta lontana dalla madre e dalla polizia. Sto con la frangia reazionaria che scavalca il muro. Il movimento indipendente con il pugno chiuso. La mia famiglia non si piega davanti a nessuno. Quelli che non abbaiano, ma ti spaccano il culo. Vienimi a cercare, vieni, vieni se cerchi problemi. Io non muovo un passo, scappo solo dai carabinieri. Resto in mezzo, sono in ballo, fino a quando vuole Dio. L'ultimo senza contratto, perché faccio a modo mio. Niente star da tele, falsi eroi, schiavi del potere. Sopra il palco come niene, più senza le catene. Meglio che ti levi se non vuoi vedere, ti conviene andare. Prima che i miei compari ti fanno del male, balla il tango della strada, lasci per la tua puttana. Se si sente così brava, da bloccarci una serata. Sangue sopra la tua grana, come sangue filigrana. Il mondo gira ancora grazie ai figli di puttana. Per le strade dentro il posto e il bagno, nella zona se ci stai cercando. Con la mia famiglia, brucio se simiglia. Dove bevi fisso fino all'ultima bottiglia. Per le strade dentro il posto e il bagno, alle spalle tutto il blocco è caldo. Centro e periferia, è tutta gente mia. Resta lontana dalla mafia e dalla polizia. Parli male dei miei, non so manco chi sei. Ti vuoi fottere lei, ma purtroppo sei gay. Mi vuoi fottere, foto solo lei. Ti puoi fottere solo mentre io vado in replay. Non mandi non del video, perché non passo in radio. Perché non sono bravo, non sono di Milano. Perché non ti sorrido e non ti do la mano. Se ti senti Cristo in terra, ma sei solo un ciarlatano. Muovi la tua bocca mentre spengo quella scatola del cazzo. E tu sparisci dallo schermo. Scendo giù per le strade nel mio posto e il barrio. A sud, alle spalle tutto il blocco e cado. Come scende la cica, giù di Shakira. Come il culo di Anita, come i fianchi di Rita. So dove sto sicuro, Kiko. Io non devo nada, niente a nessuno, fatto solo come Montana. Per le strade dentro il posto e il barrio. Nella zona se ci stai cercando. Con la mia famiglia, brucio se simiglia. Dove bevi fisso fino all'ultima bottiglia. Per le strade dentro il posto e il barrio. Alle spalle tutto il blocco è caldo. Centro e periferia, è tutta gente mia. Resta lontana dalla mafia e dalla polizia. Io non sono il prossimo nessuno, sono il primo me stesso. E se la vittima è la musica, l'accusa di omicidio, io uccido le stelle della radio come il video. Dipingo con i testi perché il rap che porto avanti sporca in rosso, tonache nere e colletti bianchi. Non mi fotte se c'hai la pistola, polvere nella stagnola. Gli MC che nomini su uomini senza pisciola. Rivoluzione in ogni mia parola, e in chi la spinge da Milano a Palermo e non è Raul Bova. Continua evoluzione come un writer con il lettering. Spingo chi c'ha i concetti, non chi dice di averceli. E se questa è una guerra, chi decide il risultato? La musica, l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che è una guerra e che è uno scontro quotidiano. Per chi resisterà con ogni mezzo necessario. Per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che è una guerra e che è uno scontro quotidiano. Per chi resisterà con ogni mezzo necessario. Per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. E siamo in tanti e non ancora disillusi. Io guardo avanti nel cielo coi diamanti come luci. Segnali sound ribelli ti sputtanano il Blackberry. Canto amore col dolore nel cuore come Otis Redding. Sangue sul mio rainbow conta un milione di pagine. E non cambia una parola perché me la detto un manager. L'etichetta fashion non apprezza il mio progetto. Le mie rime non le pagano, quindi non hanno prezzo.

giallo, bianco e giallo, vieni a contragere, non la sua comanda, la voce se parte sangue, e la tua mano canta, fatti un culo dei forti se fai lottata, non c'è quando è nata, poi dice la vita è fatta, la vieni a fare in giro, nulla te c'è non falla, la tua animo da campi e poi, lo sta dubitando, uscendo da fratello e poi chiedo, battati in faccia, non si esagera, prendo il sonno al nord, sono di un giorno e già generale, ti segui vicino da dietro, sudo freziale, svolta un po' prima di giallo, vorrei mancare l'occhio che si cari con la voce di una tastiera, bello di partire avanti, anche se non sa compiere, quindi so cosa saluto ai compagni del cantiere, con i generi dei clacks, sulla strada è una tensione, con molte generi, salgo un attimo da picchi, poi lo saluto con la scirpe da fratella, poi voi sbattati sui carbonari, anche il mio zona nord, sul tunnel di centrale, ogni c'è che c'è sullo freddo, ma svolta un po' prima di Loreto, vorrei beccarli, chiudo che si cari con violenza, sono ad Ascoli, punto di partenza e senza pensa, e se balza, cosa? La novanca si fa, fatti un tour de force, fai nottata, ok, in giornata, non si avanza, non si avanza, vieni a farti un giro sulla circonvalla, e se balza, cosa? La novanca si fa, fatti un tour de force, fai nottata, ok, in giornata, non si avanza, non si avanza, vieni a farti un giro sulla circonvalla. Prisma. Prisma, dalla nuova scuola, DJ Insu, doppia vita studio, sogno metropolitano. Rap rap, piacere sono Prisma, mega esperto di rap, gli occhi click il mio staff, partiti da un garage, adesso abbiamo fatto il salto, muovo passi con la gente vera che ogni giorno punta in alto, stringo il microfono da calmi sulle mani, così tanti che non prenderai le impronte digitali, mentre tu coi tuoi soldi brinderai con il campario, io con i miei soci ti scuoiamo a trimagliare. Lo sento dentro quando scaldo l'inchiostro di china, punto alla cima, qua la salita è dura almeno quanto prima, perché la musica che gira attira ma non ha una mira, la musica che porto attira ma non fa una lira. Va bene, pochi ma buoni, prendiamo esempio dagli errori dei peggiori, dalle gesta dei migliori campioni. Chiedo l'amore, tu mettici il calore, tu mettici l'ardore, io ci metterò il sudore. Questione di passione quando porto in alto il nome di chi scrive per sentirsi migliore, tu fatti una ragione, non è una religione, no. Io vengo dal pianeta Giove, porterò le prove in pronta delle suole, in quanto qua si fatica per mangiare il pane, mentre chi ha il pane non ha i denti, è sommerso dalle pare. Compare, vorresti darti da fare, ma senza la passione è inutile provare, senza inutile solo tentare, guidato dalla mia passione per le discipline, ho costruito un background dietro a queste rime, da tutto ciò che traggo forza, musica ribelle sulla pelle, rende dura la mia scorza marcia. Mi avevi dato del fallito solo perché quando ho presentato i primi demo non ho fatto un soldo, amico, adesso mostro fiero il terzo dito, impugno il micro sopra i palchi e guardo il cielo, ci sono quanto riuscito. Quanto ci è sudato, quanto ho camminato per lasciare lontano l'asfalto, per portare sto suono più in alto, per vedere realizzato quello che ho sognato, un sogno metropolitano che ho sempre cercato, tutto ciò che ho demolito, ciò che ho costruito, le cose che ho vissuto, tutto quello in cui ho creduto, sapore della sfida che porta in salita, sapore della sfida che mi spinge a non farla finita. Il tempo passa, lascia segni sulla faccia, vita di ricordi che s'ammassa, ma c'è il sangue sopra questa cassa, il cuore nella mia carcassa batterà con essa, è il sogno di una vita che mi è stata concessa. Ci ho messo metodo, tutta l'energia che ho, tutta la pazienza che ho, fatto sacrifici in nome dell'hip hop, adesso fiero nelle jam suono, rappo col kimono, sangue volo mentre aspiro ancora al trono. Senti, non è questione di talenti ma è l'energia che spendi, che quando dai riprendi e provochi gli incendi, famiglia umile ma cuore nobile, pure davanti ad un applauso impercettibile dall'apice. Io ho una musica che sdraia, sassi ghiaia, chiedimi due paglia, te ne do migliaia, qua tenuti a stecco come i cani. Ehi, quanto è vero che mi alleno tutti i giorni nella stanza dei tatami, io vado piano, sì, mosso da principi che mi spingono lontano, sogno metropolitano, vado, muovo passi sul cemento, le rime sul quaderno rappresentano uno scudo nel combattimento, è una battaglia faccia a faccia, i soldi per la traccia, ti cascano le braccia, ma è senza questa vita che gli dai che ti riallaccia, un vero MC lo sa, lo sa, e dal concetto non si sgancia. Quanto ci è sudato,